Non si dita Gianfranco, vabbè, ci avevo il coso, il microfono di tavola. Questo è il microfono suo, quindi. Però già devo togliere le maniglie, lo sai. Vabbè che le devo tutte verniciare e le faccio nuove nuove, però le devo togliere perché altrimenti non mi sta in mezzo agli altri radio. Prendi un po' di posto, mettelo sopra il DAC che è troppo alto, allora lo metto sotto, capito? Mica, è come se ritagliassi la gamba togliendosi la maggioria sulla maniglia. Lo so già, ma non mi ci sta in mezzo agli altri radio, ma prendi un po' di posto. È troppo largo, mi capito? Adesso vediamo, là. Che cosa fare, se metterlo in mezzo, se metto l'ultimo, se metto all'inizio, ma io lo sapevo. Questa radio è Manu, guarda, è grande, come altezza, no, ce ne vogliono due uno sopra l'altro, ma come lunghezza, è grande quanto il DAC, quindi è un bel grande, capito? Con le maniglie è ancora più umano. Ma che vuoi vedere buttate giù l'antenna, cosa? A capito? Io glielo so, mi ha mandato una foto, ma io non ho detto niente a nessuno, me l'ha mandata subito, buttata giù, non l'ha buttata giù, no, l'ha spezzata di netto, manca il radiale centrale, sono rimasti solo i radiali. Non ti credo. Sì, ti mando la foto, si è portato via il centrale, sono rimasti solo i radiali, mi aspetti, mando la foto. E ne ha fatto, vedi che tutte le antenne, se telefonate furti, non vengono arrivati. Lo so. Ha cantato anche la canzone, adesso te la mando. Allora, ci sono i radiali ma non c'è altro. Allora io devo lavorare su questa radio, mi sono rotto le palle. Allora, questo è Cal SWR, SWR io non agio. Quindi deve essere chiuso questo. Ora, ora, ora, ora. Questo non va. L'ha scritto grazie al vento che sono tutto il giorno di malumore. Ehi, vabbè, sto giorno di malumore. Ma non venite le antenne, basta metterne un'altra di antenna. Infatti, ma più robusta lì va, un'antenna più robusta, una volta che la stai mettendo la metti come si deve. E si conferma, dai già che mi preparo, dai che sono già le 7:30. E così la aperto un lascio. Cosa? Parato, aperto un lascio. Allora già le va, un raio. Devo leggere prima le istruzioni per poter fare questi spostamenti, perché il VR1 qua, Smitter e MFM non fa di nulla, capito? Devo vedere se c'è RF gain. Sì che ci dovrebbe essere. Sì, vabbè, se non lo sai fare è meglio che te lo faccia qualcuno che se ne intende, tipo Alessio. No, Alessio, faccio fare Gigi Vulcano. Che bagarre. Va bene, dai, grazie dell'info, comunque adesso vado a, come si dice, Power, VR13 è il Power, Power è LCM, ah, tutto lì sono fatti, poi VR16 AM Love, cosa vuol dire Love? Love, amore. No, L-O-V doppia, Love, cos'è? Love HI, HI. Guarda che ci dà, dovrebbe esserci scritto. Tu hai scritto VR13, Power LCAM. Cosa vuol dire Power LC? Il Power è la potenza, l'LC è la radio. Tutto uno fa questo VR13. Capaga. Allora Lani dirà da Massimo c'è radio blu. Perché a me lo Smitter mi fa oltre AM, oltre 10 watt mi va. Ehi, non ti fa troppo. Adesso mettiamo a 10 watt. E che non. Cazzo faccio? Vabbè, no, prima devo sistemare il cane, dai. Prima devo sistemare il cane, poi vediamo. Oh, microfono originale Galaxy, va bene, no? Ciao, è come quello del Pocai, praticamente vanno bene, sì. Anche quello del Pocai era bello forte, poi amplificato. È bello, è bello, ma infatti sicuramente hanno tirato un po' le corna questa, perché guarda, così abbasso. qui sto abbassando il Mickey Gain a metà 7, 8, 9 e 10. Vedi? Sì, sì, sì, abbassa di brutto. Sì, vabbè, quello sì. Però magari da dentro l'hanno adesso ti ho detto già, mi porto il cane e poi mi abbasso la potenza, mi registro lo smitter, ci sono delle stronzate da fare, capite? VR7, banane, lampone, cosa hai scritto? Banane, balance, bilanci. Vabbè, questo VR3 c'è il power, adesso vado subito al VR3, perché a me mi serve intanto questa cosa qua. VR8 PW VR4 M Squelch Smitter HB, non mi interessa, radio va bene, ok, dai, cappa di roccia, dai, già ci aggiorniamo dopo, tanto se c'è gente poi guardo i segnali col K, li faccio uguali. Ehi, ehi, adesso ci posso cercare anch'io, così almeno dopo ci possiamo aggiornare, dai. E mi tolgo a Filippo a mezzo ai piedi, così ci aggiorniamo dopo, dai. Ehi, dormito ancora, è con il gatto, quindi. Anche dai, quello si quando venga io, come sempre salutato, il radio si divisa su. Eh beh, kappa. Miau. E io, a dopo. Via, ciao. Claudio. Ehi, Dani, io devo portare il cane, sono col microfono normale. Ehi, qua sei a 9.30. Ehi, cazzo, già va bene, dai, sono liscio con la potenza della radio, 10 watt modulati 15, boh. Non lo so quanti sono perché esterno non ne ho, però sta segnando 10 watt, però si muove un bel, dai. Picchi modulazione già sono buoni. No, c'è lo smitter troppo basso, non riesco, il VR1 non agisce. Stavo guardando il PDF che mi hai mandato se c'è qualche altra resistenza variabile, però non leggo assolutamente niente, capito? No, io quella roba lì non l'ho mai toccata perché non mi fido. Tocchi una cosa, si impalla tutto. Il 65 7 da Nicca, ha rivenduto il 65 7, vuole regolato, non so se tu ce ne sei mai accorto, però la regolazione del VR1 su PDF, quello che mi hai mandato, adesso devo leggere, vediamo un po' se c'è qualche regolazione, perché è al massimo quella, capito? Quello lì è al massimo, a meno che non sia lo smitter che è imballato. No, ma anche a me me lo dava quel difetto lì, te l'avevo detto, che era lo smitter da cambiare. Infatti ne avevo messo un altro e non andava... Andava sì, però no, come li rimettevo quello lì l'originale, se ne andava tutto quanto per i fatti suoi. Ah, quindi l'hai già contattato che lo smitter, quindi vabbè, me l'hai dato lo smitter. Domani mi metto lo cambio, perché infatti questo non è il suo originale. No, quello lì è l'originale, quello lì che c'è adesso la radio, quello lì è l'originale, ma io ne avevo provato un altro, solo che non va, no, quello smitter originale non va, non si muove bene l'ago, infatti io stavo pensando che fosse polvere in mezzo al coso, alla lancetta, dove c'è proprio il meccanismo e tutto quanto, pensavo che fosse mondetta lì, invece no. Devo verificare, dai. Dani, ti devo lasciare e devo andare a portare il cane. Al limite se ci sei ci sentiamo dopo. Comunque stupenda, mi sono un po' cagato sotto perché non accendevano la strumentazione, invece c'era un filo che stava toccando e quindi faceva massa nella cassa, sicuramente come l'hai pulito, dai. Adesso tutto a posto, belle bianche, le luci, tutto funzionante. Mi sono un po' caccato. Infatti ti ho mandato, l'ho fatto prima e dopo. Va bene, ottimo per la truppa, ok? Dopo lo controllo questo Smith, perché il VR1 come mi dà da manuale è al massimo, però arrivano tutti Santiago 7, quindi ho un difetto forse di lancetta, non lo so. No, è la lancetta, claro. No, anche io all'inizio, quando mi hai fatto vedere la foto, tutto quanto spento, solamente il numero 10 acceso, ho detto, buh, strano. Dopo come mi hai detto che non si muove, non si accendeva niente, cazzo, mi hai fatto su cuna. Vabbè, dai, cla, aggiornami, intanto io adesso spengo e più tardi vado a mangiare, là. Aggiornami. Dani, l'aggiornamento è questo, la radio è perfetta, funzionante, bellissima, mi sono solo caccato, perché non mi si accendeva niente, accendeva solo il canale 10, boh, frequentimetro spento, tutto spento, c'era un filo che stava toccando a massa, sicuramente come è stata chiusa per pulire, capito, quindi mi mandava in corto la strumentazione. Adesso è perfetto, già ti ho mandato la foto, beh, sono contentissimo, non contento, contentissimo. Adesso devo vedere sto Smith perché se mi gira le balle lo ordino nuovo e lo metto nuovo originale. Però tu me l'hai dato uno dentro la busta, volevo fare l'esperimento ma non adesso, domani. A vedere un po'. Ok, dai, ti saluto Dani, ti lascio, ci sentiamo dopo, ciao. Ok, dai, va bene Claudio, ci sentiamo. Comunque stai uscendo perfetto di radio, radio assolutamente perfetta. Per essere tutta quanto originale esci perfetto, chiara chiara la voce, è bel segnale anche 9.30, non ce n'è per nessuno per essere originale. Dai Cla, già ci sentiamo, sono contento per te, ciao. Ciao Dani, no, l'ho provato anche con l'MBP5, una bomba, ma adesso sto facendo le prove con il microfono normale, capito? Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, ciao, grazie. Ok, là, ciao. Eia, gappa gappa. Parivella! Ciucu ciu! Ehi Antonio, sto mettendo a posto qua, dai, che sto provando il Galaxy, mi senti bene col microfono normale? Ah, vuoi che tengo a voglia? Sì, dai, dopo te lo faccio sentire col coso, col microfono di tavola. Capo, io sono appena arrivato, allora io farò io a mangiare. Ok. Ehi, ci sentiamo dopo, Antu. Ciao. Qua ho toccato e c'ho dei picchi da 10 watt a 15 watt. Il mio sale da 9, sale a 10. Però basta regolare la 9 e ti dà 10 qualche cosa. Io ho la portante fissa a 10 watt adesso, i picchi modulazione lasciano per vanno, quasi a fondo scala. Prima che è stato toccato. Hanno aumentato troppo le LC, ma già le faccio io queste regolazioni, c'ho lo schema, non è un problema. Però esce molto molto bene, adesso non so se lasciarlo così, non so, proprio, vediamo un po'. No, non agio più piano, ho messo tutto a posto, tutto passato lo straccio alla scrivania, tutto bello pulito, ordinato. Guarda, meglio di così si muove, tutto K di rosmetro. K, ieri mi ha fatto regolare Massimiliano il microfono così, mi ha detto che così è molto più bella la radio, è vero? Cazzo, dicendi una bomboletta, come dice qualcuno, così lo devi lasciare. Massimiliano non è uno stupido, lo sai che lui le radio ce li ha e quindi sa come si regola e come si fanno. A me la prima cosa sempre che mi ha detto, quando ho preso il lineare, ho detto qua i watt sempre al minimo, sempre al minimo, perché tanto non ti cambia niente, ti fa solo uscire male e boh. Infatti io ce li ho al minimo, capito? Ce li ho al minimo, sempre al minimo quando attacco il lineare. No, vabbè, anche la modulazione mi ha fatto regolare, oltre a quello, anche la modulazione. No, i watt li metto al minimo, no, deve lavorare così lui, deve lavorare così. Ma va via freddo, l'ha già acceso un po' pochettino, dai. Vedi, vabbè, no, guarda, io col Galaxy uso la potenza della radio perché va benissimo. Con le altre radio magari che sono più basse, allora posso attaccare l'amplificatore, capito? Ma no, non così in città, fuori. Capa, no, io sotto prova, capito? Ocra, è sotto prova, è per quello che lo sto tenendo un po' attaccato, perché è sotto prova, voglio vedere se si comporta bene, capito? E poi, ma dopo già lo sai che lo stacco, quando faccio questo, accendo l'altro che è più paccato, capito? Cava, questo cos'è? Questi sono i canali, va bene, sì, no, ottimo, va bene, avanti già. Gianni, per bella. E bello, a Romontice. Sì, sono arrivato adesso, dai, mi sono lavato giù molto, mi sono una busta di sigaretta, cazzo. A me lo odio, cazzo, lo odio. Poi c'ho quello col pelliccio, me lo sono lavato, mi metto di nuovo il pelliciotto. Dai, mi saluto che mi è arrivata la pizza. Porra pizza! Ehi, già, fai, dai, già sono qua io, che ora siamo? Ehi, tra poco andiamo a coppare anche noi, dai. Ok, comunque già, avevi ragione, c'è una ricezione favolosa, tardi, io non me la ricordavo così. Sicuramente non avevo suonato un campanello. E arrivi dalla pizza. Boh, non so. Bene, sto arrivando a Tocci, segnale. A voglia, sei guarda fondo scala. 10 watt, e da te lui, dove sono? Ah vabbè, tu c'è quello smitter scoglionato. Alla fine c'è sempre il solito segnale tuo, cara. Segnale con il vintage o col K? Diciamo lì siamo, dai, col K. Vabbè, perché un bel di watt sta là. 10 watt modulati 15, quindi più o meno io uso 15 watt col K, quindi. Però l'importante è la radio, dai, se va bene la radio sono più che soddisfatto. Guarda, va alla grande vacra, va proprio alla grande, non ci sono problemi. Ma Pompugno qualcuno l'ha sentito? No, Pompugno non è via in letargo. Ah, è K, no perché? Vabbè, già lo sento domani. Perché non stava tanto bene, poi devo chiedere una cosa, no? Cosa gli ha preso? Il morbo di Hertz? Il morbo della Hertz? Il zigamagnato rosatizzone l'ha fatto male. No, la rosatizzone l'ha fatto male, no. Rugoso l'ha fatto male. L'ultima data che ha vinto. Gli avevo detto di non comprarla più dalle Rospin la birra. Deve comprarla buona, a me ho fatto il bene. E non ci credi lui, no? Ed è sempre un chicchi lattini delle rosfì. La birra c'è una beppe, la deve bere buona, la deve bere buona, altrimenti è un casino. Si conferma. E guarda, sto comprando quella, a volte vario, un'altra azzurro, Ichinusa, la birra così compro io. C'è anche quella Juster che costa di meno ed è fatta in Sardegna, dalla Ichinusa. Quella è buona, quella è buonissima, non c'è problema. Poi compro anche Bavveria, ne ho cambiato birre. Mattia, ce ne sono birre buone. Fai la review, Senato. Quella! Un bel niente, non lo sai, fatta in Sardegna, me. Ma tu sei prodotta dagli Juster. Juster, la chiamo Juster. E dai Juster la fanno quella birra? Ma cosa? Non so dove la fanno, a Semini la fanno. Ma cosa? Aspetta un attimino. Ecco qua. Quando non piove, che bella giornata, 1-1. Anche da me, 1-1. Vabbè, dai, vorrà buttata giù, poi vorrà vulcanizzata bene. Però mi sa che lo cambio il capo, gli metto 58 U, tanto ho potenze grosse, non ne uso. Ok, allora... Perché se molto qua il capo è buono ancora, Capa, mettere un po' di polvere per le stazionarie. E la fumata devo comprare. Ehi, finalmente una radio seria, ma... Ehi, ne hai tante tu radio serie, io ne ho ne avrò due, gli altri sono mezzo serie, là. No, vabbè, io sto parlando di baracchini, questo è un bellissimo baracchino, l'avevo provato. Adesso me lo sono ripreso, no, a prescindere dai vintage, questo è un semi-vintage, però è... Bella, una bella ricezione, una bella trasmissione, c'è tutto il completo. Capitamente adesso una radio completa, canali, SSB, FM, un base completo. E ce l'abbiamo, la modulazione è buona e ce l'abbiamo. Kappa, anche la mia. Anche io sono riuscito con pochissimi soldi a farmi una stazione semi, come si dice? Semi buona, là, perché però non c'era delle niente a questo 87. Poi mi sono buscato qualche altra cosa e già va bene, là. Sì, già vedo che va bene. Allora poi faremo tutti lo bip. L'altro verrà particolare lo bip. Questa è una casa di un amico, cazzo. Fagli una cortesia. Come fumano tutti e due, mi sono andato cazzo un fiacco di sigaretta e roba. Ma almeno ci ha fatto 2 ore prima. Infatti l'ho dovuta di nuovo rilavare, giù vuoto, tutto. Cazzo, anche la muta che ci sono passate. Fumo passivo è uno schifo, eh. Io vengo qua, apro tutto. Perché così, se no ti puzza tutto. No, a me mi sta, non mi piace in camera. Soprattutto qua. No. No, infatti, a me è capitato tanti posti che fumano, no, non ci vado, se ci offendono non me ne frega niente. Infatti, quando vengo là da Marina, vanno in terrazza a fumare. Capa, ma è giusto che sia così, lo. Cioè, vengo a fumare, lascia perdere. Tu metti i bacchetti, a me, ma in casa no, ma non esiste più, no. Il mio incubo, come mi sento l'odore della puzza della cigaretta addosso, mi sembra sporco da... Ma no. Ma quante volte siamo usciti assieme? Mi hai mai visto fumarti sopra o fumare in macchina? Io in macchina non fumo. Quindi, assolutamente, bisogna rispettare queste cose, perché sennò è un casino, no, non fa, perché ti puzza tutto, ti piega tutto. No, io qua nella mia cameretta chiudo la porta, apro la finestra, ma mi affaccio una finestra, capito? Ma la finestra, ma è tutto serrato, ma se mi devo fumare una sigaretta, apro completamente tutta la volgibile, come ti sei in carriera, ma la fottuta è un retto a me. Se non me ne vado nel poggiolo, cioè devi deciderti, o apri tutto o andartene nel poggiolo, capito? Guarda, non c'è cosa più brutta, io ho fumato in camera mia, cazzi muri erano tutti gialli, ma gialli. cioè gialli, avevamo un bel gialli, comunque eravamo sporchi, poi avevo tutto bianchinato, la pipì tutto bianchinato, tutto bello bianco, no, so cosa vuol dire qua, so cosa vuol dire, è una cosa, guarda, a me è cambiato un modo di forte, mi ha fatto addocciato, mi chiamano ormai per un favore, controllano un computer, cazzo ci vai, a casa di questi qua, cazzo, figlio e mamma e padre fumando, qui va con i sarrati, di chilo, cioè era da me, da lì, cioè, c'è, claro, immagina, allora sono dovuto di nuovo tornare a casa, rifarmi la doccia, diciamo, mi tutto la capo a piedi, allora, non, io non fumavo lo stesso, e era più forte di me, a me semplicemente nato non me ne sentivo nelle mani, sì purtroppo, addosso, No, ma ci non si fumare neanche addosso alle piove. Punto, nelle mani purtroppo te lo clacchi, non ce l'hanno le mani, tutti, a meno che ti usi un qualcosa che ti pulisci le mani, le salviettine, un po' te lo levi, se no qui dai le mani. Le mani dove? Io ho 40 anni che fumo, ho le dita bianche, non vedo gialle come te la seduno, manda la mattina di mani. No, dico, se tu fumi, è l'attimo che stai fumando, ti rimane sempre l'odore delle sigarette, no? Se ti fumi una sigaretta, va, e poi la spegni, se non ti apri le mani ti rimane la puzza, ma quando sei fuori non ti li puoi lavare le mani. Ah, vabbè, pazienza. Però sempre una caramella, una cingoma, una cosa, perché ti ripeto, il fumo passivo è brutto, molto, molto brutto. Vabbè, dunque. Già va bene, dai, signori, io vi lascio che è pronta la cena, se ci siete a dopo. Mi guardo anche uno straccio di Cagliari-Milan, vediamo se questo Cagliari riesce a fare il miracolo col Milan. Allora manco rimane di Brimi, o lui. Ma penso che prenda abbastanza forte il Cagliari, non lo so. Vabbè, dai. Io vi saluto e vado a cenare, se ci siete a dopo. Confermatemi che sta andando tutto bene, perché io devo puntellare, ok? Sì, va tutto bene, Cla, non ti preoccupare. Io con 4 watt, ho staccato tutto e ho lasciato solo questo acceso. Va bene, Antonio, 9-10 abbondante, qua non c'è problema, vai tranquillo, sereno e tranquillo, dai. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Ehi, Cla, dopo, ciao. Aspetta un attimino, che vado a prendermi l'altra, il resto della roba, che me la piego, dai. Io, dai, no, non ti preoccupare, io da... Tengo acceso qua, dai, non ti preoccupare, ecco qua, ecco, secondo alimentatore acceso, facciamo solo questa radio omologata. Aspetta profumata, vai. A te Luca, devo fare bianco, ci sentiamo dopo, ok? Sì, fai tranquillo, tu fai. Ah, tranquillo. Ma mi il mare di sì a me. È meglio, mi hanno detto che è meglio. È buono quel coso lì. Ma cosa sei con l'RMI Italia attaccato, no? Adesso sto facendo la prova perché aumenta anche un po' di radio, capito? Aumenta anche un po' di radio, parecchio. Invece di abbassarmela la radio, lo aumenta, capito? Ma tu non puoi attenuare a vedere? In questa radio no, devo accendere il 550 per vedere com'è. Devi chiudere tutto il RFI per vedere com'è. Questa non c'è l'ACLA. Se mi tira sulla radio una cosa allucinante, capo. Ma già lo so quanto arrivi. Sicuramente è a fondo scala staccato e sarà 9.10, 9.15, una cosa del genere, perché me lo ricordo dall'altro giorno quando si è attaccato. È un bemme. Cioè, praticamente se avrei un altro super giù, se avrei un altro smitter, minimo sei 9.50, 9.60 quasi, o quasi 9.60. Ehi, vabbè, dai. Sto provando, guarda, adesso stacco, guarda come passa la radio, guarda, mi sto allontanando, guarda come l'ha passata la radio, l'hai vista? Hai visto come ha passato la radio? Quando attacco l'aumento un bel. Lo so, e così fa il 747, fa la stessa cosa. Così deve essere, tu, non è che deve essere diversa, così deve essere. Essere così, riesci che aumentiamo il power a vedere. Allora, sto guardando una cosa. Quindi vediamo aumentando il power. Se sale. Ora. Ehi, qualcosa è salita, va. Va bene. Ma il mio, quello lì c'ha un sacco di fatte d'ingresso, capito? Tutto diverso. Lo so. Diverso, però quando aumenti, capo, sei un bel forte, sì. E io ho tutte le linee tutte succio, perché questo è digitale, capito? Oggi ho voluto accendere questo normale, almeno mi viene anche più bene con ricatto, capito? Aspetta, mettiamo a posto il cuffio. Sì, ok. Eccomi quanto, dai. Ecco. Il doppio bip. Cosa? No, aveva fatto il doppio bip, adesso per me. Che cavolo è successo qua? Ho nei nonghi. Ecco qua. A posto. No, ha deciso per me. Aveva inteso. Deve essere come ha fatto in fretta, ha fatto il doppio bip. No, ho mollato la portante e automaticamente è arrivato un WhatsApp, capito? Ah, così è. Ma chi c'è che intendi altra cosa strana? Ehi, non fa niente. Va bene, te, subito. Ehi, scappa. Passerà, ho acceso questa perché è un pochettino che non la accendevo più. Ho detto, vabbè, lo accendo. Questa è semplice, questa radio. E quale? Quella tua? Ehi, l'Alfa Yeti Deus. Vabbè, già va bene. Ma col DM1000 è attaccato, cioè. Vabbè, già va bene. Cappa. Lasciamo, vabbè. E' un atto. Vabbè, così lo mettiamo. Vabbè, come ti andando su Gagliari? Non lo so, ne guardate né niente. Adesso guardo a vedere il risultato. Cappa. Mi sa che per la volta è una buona volta, sono lì liscio. Ah, mamma mia. Ehi. Sta di a Pessoa. E dove è perso? Non ha perso con chi è, con che squadra stava giocando, con Lecce, non me ne ammento là. Su Gagliari. Adesso guardo a vedere cosa sta facendo. L'altro giorno mi ricordo che c'è la partita e ha perso. La Fiorentina? Non mi ricordo se la Fiorentina, cosa era. No, non mi ricordo, o forse era in Coppa Italia. Ma sulla Rai stanno trasmettendo. No. Ah, essere? Solo la Coppa Italia l'anno, ce la Ryan. E allora ha perso con quella partita lì, va perso. Questa è una roba da macchina. Sta perdendo, 44esimo del primo tempo, 0-1, che ha segnato Ibrahimovic, normale. È tornato a Pizzo, è tornato. Era un periodo che non c'era più Ibrahimovic al Milan, è tornato Dorado. E a chi va? Fa un Covid, capito? Covid va. Allora, va via il Covid. Sì, ma io mi ricordo che per un periodo aveva lasciato il Milan, poi è tornato. Ah, sì, sì, sì, l'hanno ripescato. Ma è tu proprio che ho vegliato a 40 anni, ma non t'avvi. Poi è un giocatore, capito, come Ronaldo. Molto, molto utile alla squadra. Lo so, lo so. E va preso giovani, anni gana di Giunga. E finiamo il bloccaendo. Tutti fissati, solo lì ci poteva riandare, a chi là si l'avranno già scartato. E infatti là ce l'andare. Se portate non rompia le balle a nessuno, già sta giocando come per giocare, quando no già rimane in panchina. È già un gioco già. Oh già, perché dai. Sempre adinata nei ghici. Io stavo seguendo una storia di quel Ronaldinho. Già si è arruinato un po' con gli aviso. Ehi, hai arruinato Giuse? Già lo so, già lo so. Ma non ce ne sono stanotte, attento, doppio route. Oggi non ha negana. Lunedì oggi, manco Massimiliano, ho sentito. Che boh, sarà che no. E ma il solito lunedì è un po' particolare. Infatti. Il lunedì è molto particolare. Aspetta, vado a prendere una cicca. Vamos cicca. Ma ti ho mandato poco fa la foto del Gacci, non l'hai manco guardata. Adesso ti ho mandato un audio. Ascoltatelo. E rispondimi su WhatsApp, non qua. Scusami, cra. No, non l'ho fatta apposta, perché stavo facendomi la doccia poco fa, tutte cose. Ma adesso apro e guardo, capito? E non mi gioca, siccome mi mandano altri messaggi, è un casino. Vabbè, adesso guardo, scusa. No, non c'è problema, guarda, ascoltalo e poi rispondi. Mandato un messaggio. Io sto leggendo. KK è il capo di rosmetro. Attento Perivella. Attento Perivella. C'ha il bipi come la radio tua questo Galaxy. Via. C'ha il bipi uguale al 3009. Tutti uguali c'ho il bipi. Sono tutti precisi che si radio. Tutti uguali. Solo un mio Inter che è diverso fa di pivi, ma che cosa del genere? È un po' diverso, ma già va bene. Ma... Sì, Robin Sende, hai visto che mi ridizendi, Robin Sende? Ma sì, sì, sì, va bene così, da. Piano piano, con la calma. Ehi, ammaccia però, ammaccia. Notte di lampa, ammaccia. Capito mi hai? Ammaccia, il Sassaresio. Così ci capiamo. Tu ammaccia, alla voi vedi. Manco te ne accorgi. Poi faccio cillocci di fuori. Non vedi niente. Bravo, visto che hai capito. Faccio schiatta. Senza comprare niente di inutile, roba utile, e il resto, tutto il resto è noia. Gappa gappa, lo so già. sì. Ti mando un altro messaggio qua. Ciao di Roggio. Luca Perivella. Luca Perivella. Sindonda. Cappa di Roggio. Yeah, eccomi qua. Mamma mia. Luca non vai. Ho sentito il bip poco fa, se non eri tu forse da lui. Con questa radio non ce n'è bip. Allora era lui. Sicuramente sì. Sicuramente sì. Attento, per il bella. Cappa, sto così che andrò un coso da Fusaro, ma non nacca. Porca miseria. Dice forse arriverà quest'anno. Adesso a vedere quello grigio sto cercando. Quello è l'H110, l'H100, non so. Ce n'è uno grigio, così, come le Regi 58 più o meno. Forse appena appena, ma appena appena più grosso, però è quella bassa ferita quel cavolo. Sì, ma lo sto sempre chiedendo, ma beh. Ecco già che ti dica, bisogna cercarlo. Loro ce l'avevano sempre, mi ha promesso che me l'avrebbe portato, ma ancora non se ne vede il gavo. Gli ho chiesto anche oggi che sono andato a prendere dei connettori. Mi ha detto che non le è arrivato. Ma veramente, non so dove cercarlo, perché quello lì me l'ha consigliato anche cosa, anche Marco me l'ha consigliato. Dice che è eccezionale, mi ha detto. Se me l'ha detto Ed, vuol dire che è così. Sì, ma stai scherzando, quello è un capo buono. Io ce l'ho a Camille, però è più grosso, capito? Però a me serve. Mi serviva con più potenza, perché c'ho lineare valvolare anche. Tu che lineare valvolare non ne hai, ma va bene anche quello, e quello tiene più di 1200-1500 watt, tiene. Ma le RG58 è dato per 400 watt, poi conta tutta la verde, tutta la goccia, sarà 200 watt dentro. Ecco perché è un problema. Ci sono problemi con quel cavo. Me l'ha fatta a me in 5 metri la mazza, viene di varia, ma non l'ho risolto subito. Sono rinato senza rumori, senza niente, alla grande. Per fortuna ne ho 5 metri. E io sto sempre, per fortuna questo qua l'ho cambiato anche, nuovo. Me l'ha dato una persona, me l'ha dato. Mi ha dato Luca. L'ho sistemato con questo. Anche chi doveva via prima era ancora peggio, no? C'era qualcosa che non mi piaceva, questo qua è un po' meglio, alla calza un po' diversa, capito? Però io sto cercando quello grigio, cavolo, non riesce a ciapparlo. Non so se ce n'è qua, avrà prima o poi l'avrà a riga, ma se lo porta me lo sto subito comprando. Non so, ma a me sembra che ce l'aveva quello, boh. A me sembra che ce l'aveva quello, boh. Stava parlando Giulio da poco, non mi ricordo dove l'ha comprato, boh. Bisognerebbe chiedere a lui. Però so che ce l'aveva Fusaro, quello più fine della Camille. Sì, sì, l'ha comprato anche Marco KB. Me l'ha detto lui, me l'ha detto. Oh, non riesce a ciapparne, non riesce a ciapparne. L'H100 stai dicendo tu? No, io H100 no, non lo so chi ne ha. Sto parlando del 1000, l'H1000 ce l'aveva lui. Io vabbè, ne ho ordinato una matassa da 100 metri in continente, abbiamo preso 50 metri, io 50 metri un altro amico. Ce l'abbiamo divisa, però l'abbiamo ordinata al continente perché costava meno, capite? Tu ne voleva 3,50 euro a metro, mi pare. Cappa, vabbè, però è buono. No, proprio quello grigio mi... proprio quello grigio lui mi ha consigliato, perché un giorno sono andato a portare la bombola e me l'ha detto, vai prendilo, sono andato e non ne aveva, perché l'aveva comprato anche lui, e mi ha detto questo che è ottimo, ottimo mi ha detto, dice che c'è una resa allucinante. Eh certo che sì, c'è una bella schermatura, è centrale rigido, non è sciluzzato, capito? È rigido. Figlio del 1000, funziona molto bene quel cazzo, sono molto buoni, schermati, grossi, con una bella copertura in gomma, capito? Vabbè, non lo porterà, non lo porterà, io non ne ho fatto, io te l'agito cosa faccio, te l'ho detto già l'altra volta cosa c'ho io, perciò se avessi avuto una decina di metri di quello te l'avrei dato, non ne ho io di cavo fine, non ne uso. Da fusare il 58 pensavo di fare un bel lavoro da una scrivania all'altra, ha cominciato a frusciare, innesca, oh, io lampade e tutto, e ho messo uno spezzone da 4 metri e mezzo, sarà da una base all'altra, 4-5 metri, ce n'è un pochino anche dietro le radio, lì a Camille, non me ne ha fatti nulla. Scappa, bisogna stare attenti un bel con il connettore, amico, con il 58. Molto attenti, hai questi connettori strani, mamma mia. Vabbè, no, io già li faccio bene, te l'ho detto, li mantengo con la pinza, li stringo bene, una volta che è arrivato poi alla fine della filettatura ben stretto, allora lo saldo, se no non lo saldo. Anche io, però ho notato una cosa, io ho comprato dei PL, come stavo dicendo ieri, da Fugiaro. I simbiovecci, cioè quelli di prima che ci avevano, erano migliori. Ne ho comprato altri nuovi, Dio mio santo, se non fai attento con il saldatore, i rovini proprio. Cioè non capisco cosa cavolo stanno portando ultimamente. Sì, perché il teflon ci sono sempre stati alla fin fine. Però io ho degli ispezioni tuoi che mi hai avviato tu, avranno i 10 anni, forse tu ce li avevi anche da prima, e non è mai successo niente, mai, e sono con quel materiale lì, eppure sono buoni, vuol dire che ultimamente per roba che non serve, cioè è ancora più scadente. Non servono, tu, non servono, credimi che non servono, ma ha detto anche Gianfranco, cioè i cavi che facevano una volta, ma non solo i cavi, anche PL, barilotti, io ne ho qualcuno vecchio, ma che paragonano quelli di adesso, che sono in plastica, quella era Teflon, erano tutti di Teflon prima, capito? Dice plastica, ma anche il cavo, l'R-158 facevano un tempo, era molto molto meglio di quello che fanno adesso, ma non solo, ti dirò di più, ma anche la componentistica di oggi non è uguale a quella di prima, completamente, molto ma molto più scadente. Ma è vero cavolo, ma non guarda veramente, non riesco a capire perché prendere, cioè perché fare queste porcherie, cioè non riesco a capire cosa ci vuole a usare un materiale buono, cioè o sono i cinesi, cioè non è possibile, oppure lui se è andato in mano ai cinesi. Può darci pure, Anto, cosa non è detto, può darci pure, però ti ripeto, oggi come oggi l'elettronica sta andando molto, molto a scadere, molto parecchio. La componentistica, non detto da me, ma detto da tecnici di laboratorio che ci lavorano, è molto, molto più scadente, come i condensatori, le resistenze, diodi, transistor, non parliamo degli integrati, sono molto, molto più scadenti rispetto a prima, capite? Lo so, e poi c'è il pro e il contro, ci sono delle cose che magari sono fatte molto più bene, magari le cose più banali, ma per volte sono fatte molto più bene da dite di chissà cosa. Sta succedendo anche questo fatto così, è tutto quanto un ciaramedo, no? Guarda, io non, capisco più niente, dico la verità. Ha giubilato cose che mi sono durati anni, cose di marca che mi si sono fuggi subito. Roba da matti. Allora, avevo preso una televisione, cioè avevo preso prima di morire la povera mia mamma, dalla Philips, è andata subito male, cioè dopo 6 mesi la televisione KO, non trovavamo più lo scontrino, non trovavamo più niente, l'abbiamo dovuta buttare. Ha giubilato di una macca candonnai, una CAI, c'è ancora latte dolce, sempre funzionando sta. Le cose vecchie, guarda, io l'ho buttato via il MIFAR, ce l'avevo qua in sala radio, era di miei suoceri, una televisione spettacolare, schermo piatto, certamente, però ho sempre funzionato bene, poi si è spenta, non ha più acceso, e infatti faccio un giro di conti e trovo a fanculo, la butto via e basta, però mi è dispiaciuto perché non ricordo, capito? Funzionato per 30 anni senza mai avere riparazione. Luca l'ha fatto una riparazione, mi sembra che ha cambiato un transito, qualcosa del genere, non mi ricordo. Adesso invece, se tu vai nei laboratori tecnici, no, dove aggiustano televisori, è tutto pieno di televisori di ultima generazione, durano un anno, alla voce faranno lo fumo, proprio perché? Perché la componentistica non serve a niente. Sì, lo so, ma a volte anche queste cose sono pura fortuna, amica. Molte volte pensi che magari sia più malenga una marca che l'altra, e molte volte sono le cose che durano di più. Infatti è così, non c'è niente da fare. Kappa, dai Anto, io ti saluto, spengo, sono tutta la Genova, Gadretto, facendo, ma fatto questa radio, me l'ha portata alle 6, sono alle 6 buttato qua dentro, ho mangiato un boccone, perché era un casino, la stavo pulendo, facendo alcune regolazioni, perché c'era la potenza troppo alta, non la sono regolata giusta come da manuale, adesso domani mi faccio lo smitter, devo leggere bene il manuale, mi faccio lo smitter. Più canto, me ne vado a guardare un po' di TV e poi a nanna, ok? Ciao, grazie alle due chiacchiere, sono già 10, tanto anche domani lavoro, lascio tutto acceso, nel caso entra qualcuno magari, però ho bisogno di sdraiarmi un po' dal divano, mi fa male anche la schiena, ok? E a cappa, che c'ha a vedere una cosa? Ma così muove, allucinante. Ok, dai, cra, ci sentiamo. Quando non c'è umidità, c'è le stazionarie che sono fantastiche. Ok. Ciao, cra, ci risentiamo. Ciao, Anto, ciao, dai, grazie alle due chiacchiere, a domani. Se non a dopo, a domani, dai, ciao, buonanotte a tutti. Vai, sdraiati, che adesso è burro e mi ti gocco, quindi va giù giorno. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.